Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis, benvenuti a Mr. Kilowatt. Nella puntata di ieri sera abbiamo spiegato con dovizia di particolari che il 2011 sarà quasi certamente l'anno del boom del fotovoltaico. Però ecco, all'interno di questo mercato comunque in crescita si intravede una direzione di sviluppo privilegiata. Parliamo del fotovoltaico integrato negli edifici e lo facciamo, presento subito l'ospite, con Lavinia Tagliabue, ricercatrice del BEST, il Dipartimento di Scienze e Tecnologia dell'Ambiente Costruito del Politecnico di Milano. Buonasera Tagliabue, benvenuta a Mr. Kilowatt. Buonasera a tutti. Allora, intanto ci troviamo, siamo agli inizi di gennaio, dentro un quadro anche relativo agli incentivi normativo, diciamo che è mutato rispetto al 2010 e che insieme anche alle regolamentazioni che via via gli enti territoriali, in particolare le regioni, stanno adottando, è un quadro sempre più ostile, diciamo, ai grandi impianti fotovoltaici a terra, soprattutto sul terreno agricolo. E quindi Tagliabue, che cosa succede? Sì, il nuovo conto energia, diciamo, rispetto a quello precedente, cerca di incentivare l'integrazione del fotovoltaico sulle costruzioni, in quanto comunque risultano una soluzione tecnologica più ottimizzata sia rispetto alle necessità energetiche delle costruzioni, perché riusciamo a produrre l'energia nel sito in cui viene consumata e comunque vengono utilizzate superfici già realizzate e esposte alla radiazione solare, quindi diciamo energia gratis che già raggiunge delle superfici che magari in alcuni casi anzi diventa un carico termico che poi deve essere smaltito in altro modo, diventa invece una risorsa di generazione per la costruzione, per le utenze. Che cosa si intenderà però nel 2011 per fotovoltaico integrato? Non è più la stessa roba del 2010 e degli anni precedenti. No, anche perché l'integrazione è stato usato anche come termine abbastanza generico, mentre sarebbe stato più corretto utilizzare appunto applicazione. Adesso il nuovo conto energia incentiva anche con tariffe superiori proprio l'integrazione di elementi considerati innovativi, che implicano non solo il posizionamento del modulo fotovoltaico, ma considerano tutto il componente con anche i sistemi di fissaggio e dei sistemi che possono servire proprio a realizzare un pacchetto di involucro sostitutivo degli elementi tradizionali. Quindi oltre alla funzione energetica andiamo a svolgere, a seconda della soluzione che adottiamo, le funzioni tecnologiche dell'involucro edilizio. Ecco, quindi insomma siamo di fronte a un cambiamento, per così dire, di paradigma. Il fotovoltaico non è più qualcosa che si appoggia su un tetto, su una superficie, comunque un oggetto a sé stante, ma diventa una funzione, per così dire, che deve mettere in campo il nuovo componente edilizio, che deve nel frattempo mantenere le proprie funzioni, quindi per esempio strutturale, oppure di isolamento termico, oppure di isolamento acustico. Esatto, ecco, quindi insomma cambia un po' da questo punto di vista. Forse diventa anche più interessante questo mercato proprio per coloro che realizzano componenti edili. Sì, anche nella progettazione, nella ricerca e sviluppo di nuovi componenti appositamente per questo, per l'ambiente costruito. In più il decreto e le linee guida che il GSE sta preparando per specificare proprio le caratteristiche degli impianti che poi vanno a essere incentivate, dice anche che il fotovoltaico deve integrarsi armoniosamente nell'estetica della costruzione. C'è proprio un elemento estetico unito a un elemento funzionale, che è quello che in qualche modo abbiamo detto. Proviamo a fare qualche esempio però. Ma alcuni esempi possono essere elementi che possono essere integrati sulle coperture, sulle facciate, dei pacchetti di facciata in cui lo strato esterno è fatto con il modulo fotovoltaico, poi viene fatto un pacchetto con un altro vetro retrostante. Queste soluzioni vengono fatte solitamente con i moduli semitrasparenti, in modo tale che oltre alla funzione energetica, la funzione tecnologica di chiusura, quindi permeabilizzazione, resistenza meccanica, resistenza agli agenti esterni, sicurezza elettrica e tutto dell'involucro, abbiamo anche un filtro della luce, quindi un intervento sul comfort visivo interno. Questa può essere una soluzione. Quindi le facciate areate sono un esempio, anche le tegole. le tegole, anche le tegole fotovoltaiche che sono disponibili in varie tipologie, sia su tegole diciamo tradizionali, tegole in ardesia oppure anche tegole più di dimensione più grande. Ecco, qui per esempio una direzione interessante riguarda la capacità di realizzare dei componenti fotovoltaici che si integrino bene nei centri storici, che in Italia sono moltissimi. Esatto, che sono zone comunque che possono avere dei vincoli e dove il requisito estetico diventa anche molto, molto importante. Diventa interessante per le aziende cercare di andare a capire quali sono i requisiti che questi prodotti devono, a cui devono rispondere, e cercare di produrre appunto qualcosa che vada a inserirsi in contesti dove adesso non è possibile operare. Ecco, e poi ci sono insomma barriere acustiche, ci sono i frangisole, le pensiline, insomma chi più ne ha più ne metta, qui spazio alla fantasia e speriamo anche un po', come dire, alla voglia di intraprendere della piccola media impresa italiana. Una domanda lampo, secondo lei per quanto riguarda i materiali fotovoltaici c'è qualcosa da tenere sott'occhio con particolare attenzione o andiamo avanti col silicio? Ma diciamo che il film sottile stanno prendendo un piede e anche nelle prospezioni di mercato mostrano di avere una possibilità di crescita molto, molto ampia. Comunque la tecnologia del silicio per il momento rimane preponderante. Grazie, Lavinia Tagliabue. Grazie Melis, buona serata. Grazie anche a voi tutti che siete rimasti in ascolto, l'appuntamento è per domani, scopriremo che rapporto c'è fra un buon piatto di pasta e un buon involucro edilizio.